tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo una nuova puntata del notiziario anticlericale a cura del Circolo Giordano Bruno. E iniziamo dall'epidemia del coronavirus che sta continuando a falcidiare le file clericali. E siamo arrivati ormai a 118 preti morti, tra cui segnalo che a Crest in Francia sono morti 5 frati su 11 in un convento. A Parma sono morti 5 parroci e ben 12 frati. Tra le suore è una strage. 5 infermiere della dolorata a Como morte. 7 suore meldine di Bologna vittime del coronavirus. 13 poverelle dell'istituto Palazzolo di Bergamo, tutte uccise. 8 suore comboniane di Bergamo. 3 suore di Nazareth a Botticino Brescia. 6 orionine di Tortona. 6 maestre di Dorotea Piacenza. 5 figlie della Sapienza Sanremo e per ora si sono salvate le suore crocifisse delle 7 spade. Avevano denunciato il Dognocchi, istituto clericale di Milano, licenziato uno dei 18 lavoratori, leggiamo dal giorno dell'8 maggio. L'istituto clericale Palazzolo, insomma, ha fatto queste rappresaglie e cosa dice l'avvocato dei lavoratori? L'avvocato Romolo Reboa, che assiste i lavoratori licenziati dall'istituto clericale, ha sottolineato: confermo che tra i miei assistiti alcuni hanno ricevuto delle lettere di licenziamento, qualcuno è stato ammonito, altri trasferiti. E inoltre denuncia una diffamazione ai suoi danni. Tra le persone inquisite dalla magistratura c'è un certo Papa Wollendiaje. C'è uno scheletro nel fosso, siamo allo scandalo di Pietramala in provincia di Firenze, dove sono sparite troppe persone. E questo posto era già famoso perché c'era questo prete maniaco degli esorcismi. Adesso, essendosi trovati i corpi, magari la cosa avrà degli sviluppi interessanti per noi anticlericali. 6 maggio 2020, a chi l'ha visto questo prete esorcista maniaco che fotografava le presunte indemoniate, è stato segnalato appunto in televisione. 7 maggio, gaffe del Papa in una telefonata a un ragazzo disabile, gli avrebbe detto: ci vediamo all'inferno. Ammazzalo. Passiamo poi al giorno del 7 maggio, sempre sul problema delle messe soppresse. Censura al sindaco che non vieta le messe in pubblico del parroco. A Colturano in provincia di Cremona, la lista Insieme per l'Unione presenta una mozione. 5 aprile 2019, è saltato fuori adesso. L'ex parroco Don Belleli di Modena è stato spretato per ordine Vaticano, però non si sa il motivo. I soliti segreti, le solite turpi vicende scandalose. Ah, segnalo che su SuperTube c'è il video delle 3 finte suore scoscianti. Ah, su Rai Storia ha fatto un bel documentario il 2 maggio 2020 sull'origine della ginnastica in Italia, dove si è evidenziata l'ostilità del clero alla ginnastica femminile, che non voleva che le palestre fossero aperte anche alle donne. Al 3 maggio ho trovato su internet la notizia della chiusura definitiva del monastero di Città di Castello. Poi ricordo, appunto, avevo già detto, il suicidio del prete a Cologno Monzese, che si è gettato dalla finestra e lasciando un biglietto che non ce la faccio più. Vabbè, lo capiamo, poverino. 3 maggio 2017, leggiamo dal calendario anticlericale. Giovane critico della festa di Sant'Agata a Catania è pestato da fanatici bigotti cattolici, insulti e minacce. 4 maggio 2014, scandalo del vescovo armeno cattolico di Venezia, aveva una relazione erotica clandestina con una signora. 5 maggio 2017, Don Onofrio Serra, parroco in provincia di Cagliari, assolto dall'accusa di furto al Brico Center. Il misfatto era realmente avvenuto, ma il Brico non ha sporto denuncia e quindi, pur essendo stato colto in flagranza a rubare la roba, il prete se l'è cavata, in quanto il furto è sempre a querela di parte. 6 maggio 1692 l'Inquisizione di Venezia condanna al carcere perpetuo un frate colpevole di apostasia e conversione all'Islam. 7 maggio 2014, abusi, il Vaticano si difende affermando di aver espletato ben 800 preti in 10 anni per pedofilia. Vabbè. 8 maggio 2017, 4 fedeli morti mentre vanno in auto alla sagra di San Nicola a Bari per disgraziato incidente stradale. E qui il solito angelo custode che dorme. 9 maggio 2018, Don David Paulson, arrestato per pedofilia in una diocesi americana. Leggiamo poi dal dizionario anticlericale. Arroganza tracotante è quella dei cattolici di pretendere di convertire tutti i popoli alla loro religione. Astrazioni e astruserie religiose intaccano l'etica, ne sovvertono il significato e la funzione di compendio di criteri ai quali l'uomo deve ispirarsi per la esteriorizzazione dell'unica realtà, quella terrena materialista. Atei devoti, politici cinici, del tutto spregiudicati, di origine e ambiente non cattolico, pronti a svendere qualsiasi e quasi ogni parvenza di laicità al papato. Bene, carissimi, saluti a tutti alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Chi vuole contattare Pierino può telefonare al 331 730 2874. Saluti.